Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Non vi sembrerà vero, ma sono qui anche questa sera. Ah, che bello! Ciao Maurizio! Buonasera Agostino! Ciao, ciao, benvenuto anche a te. Ovviamente questa è la vostra emittente, Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che è assieme a Maurizio Calzavara. Questa sera eccezionalmente, fino non si sa che ora, insomma, abbiamo una cantante calabrese, ma vive attualmente a Parma, se non sbaglio. Correggimi se vuoi. Vero, Maria Teresa vive a Parma, sì, attualmente. Ma la presentiamo tra pochissimo. Vi ricordo allora, le nostre frequenze 88.794.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il nostro sito www.bluradioveneto.it. Vi ricordo le nostre pagine Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure quella gestita totalmente dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo, che si chiama semplicemente Blu Radio Veneto Rock Wave. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, questa sera importantissimi, se volete mandare il vostro SMS. Vi ricordo è il 346 23 20 033. Se invece ci volete raggiungere qui in studio è lo 049 875 6423. Ho detto tutto, non vedo l'ora di presentare questa artista che mi ha dato una carica di simpatia con la sua personalità enorme. Si chiama Maria Teresa Ronetti, e quale Blu Radio Veneto dà il suo benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Praticamente questo era un modo carino per dire che ti ho sfasciato lo studio. No, no, assolutamente. No, assolutamente no, anzi, ti stavo dicendo, hai una simpatia, no, io non ti conoscevo. Ti ho inciampato in qualsiasi cosa che... super cosa, va bene. Come stai intanto? Bene, bene, bene. Hai fatto un buon viaggio? Sì, sì, fatto buon viaggio perché sono stata accollata dai miei musicisti. Ne hai abbastanza questa sera. Era musica molto, ecco, solo metal, quindi capisci bene che sono schizzata per forza. Ma Maria Teresa, presentiamo i tuoi musicisti. Sì, sì, assolutamente. Allora, Massimo Spadotto, che stasera gioca in casa. Ma Massimo, tu come devi fare per parlare al microfono? Ma dopo si avvicina, no, si avvicina, sì. Si avvicina al microfono. Non è che me lo chiudete in un'altra stanza. Beh, lui è Pordenone, dice. Quindi è raccomandato. È raccomandato. Ah, okay. È raccomandato. Ok, poi Fiorenzo Fuscaldi. Ciao a tutti, buonasera. Ecco, invece tu hai il microfono, che sei raccomandato. Poi Emanuele Mazzaschi alla fisarmonica. Ciao a tutti, buonasera anche da me. E Thomas Garretta alla chitarra. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, cioè, poi volevo presentare, anche se non è qui fisicamente, Antonio Bodini, che è il nostro batterista e ci ascolta, e tanti baci, poi parleremo anche di lui più durante la serata. Fin là. Bene, bene. Agostino, abbiamo un sacco di strumenti, un sacco di cavi e un sacco di voglia di suonare stasera. Io ho ascoltato il disco, ho ascoltato loro che facevano le prove per provare i vari strumenti, veramente qualcosa di entusiasmante. Sì, veramente anche l'entusiasmo della nostra leader, della co-leader della band, ecco, praticamente. Giusto? Della co-leader della band. Il tuo disco è stato definito New Folk. Cosa vuol dire New Folk? Ma che bello, ecco, se lo sapessi, guarda. Sì, questo movimento che sta cominciando a riprendere piede nell'ambito non solo italiano ma anche mondiale, New Folk. Ma New Folk, guarda, è una definizione che mi piace molto. E io di solito dico sempre che la mia un po' si verte più sulla musica mediterranea. Mediterranea, no? Esattamente. New Folk possiamo chiamarla come musica nostra, musica mediterranea. New Folk, guarda, non lo so se è un misto di tradizione col che si incrocia al moderno, al progressive, che passa dal rock. Esatto. Insomma, è una sorta forse anche di viaggio, un po' lo vedo in questo modo. Sì, una grande danza in ogni caso, appunto per quello. Vedi che sto collegato, però ecco, l'importante è che ci sia qualcosa di nuovo, ecco, per cui nel momento in cui si ascoltano le canzoni e la sensazione è quello di una ventata di diversità. Sì, esattamente. Io ho letto le critiche, tutte positive, molto positive del tuo disco. Hanno parlato di tanti generi, hanno parlato del folk, del pop, del rock, del progressive, del jazz, sai, del blues. Mi sono commossa quando ho letto le recensioni. È stato emozionante. Quindi l'idea di poter creare qualcosa da che comunichi poi a chi ascolta, credo che sia una delle principali gratificazioni per uno che ama la musica. Maria Teresa, il progetto da dove nasce? Come comincia? Dalla Terronia, domanda. Nasce da lì. No, nasce dal fatto che io provengo da questo paesino che si chiama Medissa, dove non c'era granché. E quindi, dimmi. Ecco, le cose da fare erano praticamente zero. Quindi mi sono inventato un po' un percorso parallelo, per cui non so, mi chiudevo in stanza sul mio terrazzo e scrivevo delle poesie, dei pensieri, poi ho cominciato a suonare la chitarra da sola e da lì insomma ho impacchettato tante idee, tante emozioni. Poi mi sono trasferita a Parma Hai trovato questi musicisti? Sì, ho trovato i musicisti e diciamo che ho riaperto i pacchetti e il progetto è venuto fuori. Quindi non è che io avessi mai pensato di mettere su una band o di fare delle canzoni e, o di arrivare insomma a vivere queste esperienze con loro e in giro. E quindi insomma tutto abbastanza spontaneo, tranquillo e... è così, ecco. E ti stai divertendo adesso? Di base. E ti stai divertendo adesso? Eh? E ti stai divertendo? Eh beh, sì, io mi diverto. Ah, sì. Maria Teresa, io ti porto già dei saluti dalla Sicilia. Davvero? Pensa un po', sì, sì, c'è una tua, come dire, collega, si può dire così. Ma sì, sarà una mia parente. Ma no, no, no, no, no, no, no. Cioè, siamo distribuiti in tutto il territorio mondiale. C'è una cantante che si chiama Mirella Regina che ci sta ascoltando da Alcamo. E io ho la filiale ormai di Alcamo, no? Essendoci stato qualche mese, qualche giorno fa, un mese e mezzo fa. Sì. Loro si sintonizzano spesso in quello che facciamo noi nelle dirette. E anche questa sera non vedo l'ora di ascoltare la Ma vostra che meraviglia! Musica. Allora un bacio tutto terronico per loro. Tutto terronico. Sei troppo forte, Maria, veramente. Vediamo cosa dice alla fine dell'intervista. Va bene, facciamo ascoltare una canzone adesso, cosa dici? Sì, dai, partiamo con la musica. Ecco, e poi torniamo in studio, va bene? Sì, ma sai che io ti sento male? Mi senti male? Cioè, si può sì, fare certo. Perché si può alzare, si può alzare. Si può alzare, io sono alzato al massimo. Adesso ti sento. Adesso perfetto. Va bene, allora ci ascoltiamo una canzone? Sì. Cosa hai scelto? Cosa hai scelto? Io direi che abbiamo scelto insieme la colonna sonora, si può dire, nel nostro album che si intitola Giugno. È un disco, è un pezzo molto importante, Giugno. Adesso lo spieghiamo un poco. Importante come costruzione, complesso, con un sacco di stop and go, tempi dispari, eccetera. Sì, beh, i tempi dispari sono il mio forte, forse perché io di pari in testa non ho assolutamente nulla. Cioè, quindi... È vero. Perché è vero. Tutti i miei musicisti fanno... Ho confermato tutti, Stanno confermando con delle teste, cioè cos'è questa cosa? Vabbè, poi dopo facciamo il conto. Comunque, insomma, perché mi piacciono i tempi dispari, perché mi piace passare da un registro a un altro e così invogliarmi ad ascoltare un pezzo. Quindi siccome faccio così quando vado ai concerti e se vado ad ascoltare delle cose dove non ci sono delle situazioni un po' anomale, mi annoio. Quindi si vede che, non so, inconsciamente mi viene a scrivere passando da questi registri... Insomma, tutti diversi tra loro. Ma è bello che il pezzo è importante, perché il pezzo dà il titolo del disco. Sì, questa è un'idea del nostro Antonio, che appunto non c'è. E sì, il pezzo, insomma, un po' particolare, però ecco, anche un po' critico, se si vuole, no? Insomma, a me non piace proprio l'abuso di potere, inteso non come forma, diciamo, nelle grandi situazioni, non solo politiche o di posizioni importanti, ma proprio anche nelle piccolezze. Mi dà molto fastidio, diciamo, il fatto che qualcuno si possa sentire, possa usufruire o, diciamo, approfittare di situazioni di altre persone, ma non soltanto da un punto di vista fisico, anche intellettuale e altro. Quindi, insomma, il fatto di contestare un po' queste persone che si credono chissà sì. cosa, no? Alla fine, insomma, nulla sono. Certo, certo. Allora. E dal titolo La grande danza, perché non so, nel disco poi potremo sentire con le canzoni che suoneremo dal vivo che si passa da appunto da un registro a un altro, così come nella vita passi da un registro a un altro, ed è tutta un po' una danza. E a volte ti piace, a volte no, però finché c'è la musica si balla, quindi. Certo, è sempre una grande danza. È sempre una grande danza. Ok, sì. Allora. Ascoltiamo Giugno allora. Ascoltiamo Giugno. Ok. Tragitti percorsi scappano, lasciali andare. L'alba del giorno che guarda lontano sembra convincere un perché, che non ha domande, che non dà risposte, che non vede il niente. Quel potere che nessuno comprende. nessuno vorrebbe, chi lascia chi perde. Mi sembrerà strano, ma siamo in diretta con un live anche questa sera con una splendida ragazza, lo ribadisco per l'ennesima volta, Maria Teresa Lonetti, poi c'è Thomas Garretta alla chitarra, Massimo Spadotto al basso, Fiorenzo Fuscaldi alle percussioni, Emanuele Mazzaschi fisarmonica e piano, ma anche Antonio Bodini, però ce l'abbiamo al telefono. Ciao Antonio! Caramba! Caramba! Pronto! Antonio? Antonio? È sparito. È sparito. Antonio? Antonio, non ci sei? Secondo me sta venendo qua in macchina fuori tutti. Antonio, ci sei? Antonio? Antonio, mi senti? Non ci senti. Adesso lo riprendiamo. In ogni caso, parliamo un momento di giugno. Sì. Ma ha detto giustamente il chitarrista che avevi già pronto anche i tempi disperi di questo pezzo. Sì. È un pezzo molto, ripeto, molto complesso, ma molto affascinante nello stesso tempo. Sì. Ti parla di re. Antonio, ci sei? Ci sei, Antonio? No. Antonio? Non mi sento. Se ci sei, batti un colpo. Continuiamo. Allora. Si parla di re, di regine, di potere, insomma, sì, praticamente. Sì, sì. Ecco. A posto. È un po'. Se n'è andato, ma adesso tornerà, adesso assolutamente. È il suo spirito. Allora, sì. Parla di re, di regine, di potere, è un pezzo molto interessante, complesso, dalla costruzione e anche dalla lunghezza non usuale, secondo me. È abbastanza lungo come pezzo. Sì. Però vedi, passa subito, non te ne accorgi. No, in realtà quando l'ho composto è stato proprio un flusso di energia, mi è venuto fuori subito, ma a dire la verità tutte le canzoni quando mi vengono non è che le cambio molto, non faccio molte correzioni. Io ho visto la faccia del nostro chitarrista che ha detto sì, è arrivato coi tempi disperi, ci fa facendo impazzire, non è così? Sì, però devo dire una cosa, nonostante noi ci lamentiamo molto, sì, sono dei tempi dispari che in qualche modo non danno l'impressione di... cioè, sono abbastanza fluenti. Ok. Come mentre di solito, adesso non vorrei scadere troppo nel tecnichese, però in musica i tempi dispari sono qualcosa di scomodo. Spiega un momento ai nostri ascoltatori, un po' ignoranti. Faccio come me. Faccio solo una prova. Antonio, ci sei? Guarda, di solito quando le canzoni, diciamo, nel pop, nell'ambito commerciale, sono dei tempi pari, che certo, sono un qualcosa di molto ritmico, che probabilmente deriva ancestralmente dal battito del cuore, chiaro, eccetera eccetera, per cui sono tempi molto rassicuranti, molto comodi fra virgolette, molto accattivanti, sempre... sì, aspetto, molto molto anche semplici da, mentre i tempi dispari sono un qualcosa di un po' più, diciamo, scomodo, perché uno è lì che magari conta, muove il passo, però c'è qualcosa che non torna mai. È raffinata allora la Maria Teresa? Sì, ma secondo me senza volontà. Ma mi sembrava strano che avesse parlato positivamente 2 minuti, me lo stavo godendo in pieno track. Senza sapere. No, per fortuna, sì. No, perché per me sono molto semplici. Dimmi. Non lo so, nella mia testa delle cose strane vanno che è una bellezza. Fa delle cose più quadrate. Io Okay, ho capito. Ho difficoltà. Cioè, ma a me interessa il discorso dell'inserimento dei diversi strumenti. Come l'avete ideato? Guardate che c'è Antonio. Antonio? Antonio, ci sei? Sì. Ecco. Ciao a tutti. Tiratela meno. Scusate ragazzi, ma interferenze telefoniche. Adesso è inutile che te la tiri, Antonio, insomma. Bene, parlavamo di giugno, Antonio. L'inserimento della batteria, come è andato in questo pezzo? Come... hai dato il tuo contributo a questo pezzo che già Maria Teresa aveva formato praticamente? Guarda, sì, devo essere sincero in questa risposta, perché effettivamente essendo una canzone apparentemente semplice, però con questi tempi dispari, io avevo qualche problema a scegliere una combinazione ritmica che fosse efficace. Allora la cosa più semplice, visto che sono un po' un lazzarone, qual è stata? È stato andare dal mio maestro di batteria, gli ho detto: ascolta, te come la faresti questa qui? Confessioni allo specchio. Esatto, e lui francamente mi ha fatto sentire un po', poi ce la siamo scritta e dopo l'ho imparata, e quindi poi vabbè, chiaramente ci ho messo del mio, perché quando c'è poi il ritornello io faccio un pattern che in realtà è molto ben codificato nel linguaggio musicale batteristico, però sembra che ruoti bene intorno al pezzo, no? Però nel ritornello c'è proprio un pattern che è stilisticamente definito, però io ho modificato perché c'erano delle cose che in sovrappiù che ho dovuto togliere. Ecco, diciamo che il mio contributo è stato lì. Però insomma è una combinazione ritmica che mi piace molto e chiaramente ha necessitato un certo sforzo per essere realizzata in certo, maniera rotonda. Era un modo mentale, elegante per dire che era disperata. Esatto. Per quello. Già. Ma in ogni caso è un pezzo di movimento, la grande danza, è proprio un pezzo di movimento, dà proprio il movimento, il senso del movimento, quindi è positivo per quello, oltre ad avere chiaramente un testo importante e un testo che dà il titolo all'album, che non è semplice. Io è sinusoidale, giusto? Esatto. Ma non ti chiediamo cosa vuol dire. Quindi ho capito, la tua partecipazione è stata in questo settore praticamente, di dare uno sviluppo in questo momento. Ma sai che Antonio è una colonna? È una colonna importante. Lui è entrato con me dall'inizio del progetto ed è ancora con me, proprio è la mia colonna a destra. Ho capito. Gli altri come sono entrati nel progetto un po' dopo? Gli altri pian piano, anche Max è la terza colonna. Emanuele anche, diciamo, poi è andato, ha fatto un po' di giri musicali ed è tornato più ricco. Allo Ville, sì. Si è ricordato da Dio. E Fiorenzo, insomma, è il nostro caso sociale. No, lui è un genio, veramente, fa delle cose incredibili. Sì, ma devo dire tutto, siamo insieme da 5 anni, è la storia più lunga che ho avuto, quindi. Ah, perfetto. No, scherzo. E quindi ecco, insomma, va bene. Bene, bene, molto, molto interessante. Un discorso, almeno si capisce dal di dietro e dal profondo com'è veramente un pezzo. Adesso scherzi a parte, come si costruisce un pezzo? Per me non si costruisce, cioè nel senso, Dimmi. Che mi metto la cuffia. Mettiti la cuffia. No, non si costruisce, nel senso che chi scrive delle canzoni lo sa, è proprio un'esigenza e ti viene. Io scrivo di notte perché dormo poco, di solito. Come me, però, sì, però scrivo anche, non so, se quando sono a fare delle altre cose. Durante? Su dei fogli, su delle carte. Cioè, sono delle cose a gettito. Solitamente mi viene musica e testo subito. Quindi scrivo, ho il ritmino in testa, suono con la chitarra. Poi vado lì e dico ragazzi. Sì, quando i ragazzi sanno che tu hai un pezzo pronto. E io gli dico che espressione ragazzi, fanno. È una cosa semplice. Che espressione fanno i ragazzi? Poi aspettiamo 2-3 settimane prima che lo porti. Poi riperdo, poi loro mi cazziano, se si può dire. E poi insomma, ti faccio parlare, vai. No, puoi parlare? Vai. No, perché sì. Va. No, poi rimaniamo ogni volta stupiti ed esce un nuovo pezzo di Maria Teresa Lonè. No, però dico, ragazzi, ho scritto un pezzo e cioè, questa volta è tranquillo, sono 3 accordi e tutti mi dicono ancora. Benissimo. Avete mai pensato a staccare la spina a Maria Teresa con tutta quella foga che ha? Avete pensato di staccare la spina? No, non sia mai. Io non ho ancora trovato il tasto off, ma se lo trovo. Ma è sempre così lei? Sì, di più. Penso. Adesso siamo tutti manzati, posati. Però... Anche siamo in una stanza piccola, anche per quello. Per motivo. Antonio, no. Che mi dici te? Ma guarda, sono molto contento che i ragazzi siano lì e che insomma ci abbiate invitati, sicuramente è una cosa veramente molto bella. Io sono qui, per fortuna vi ascolto al telefono. Ma in realtà è una cosa che non dovrei dire, io sono qui in sala prove a studiare. L'ultimo pezzo di Maria Teresa Lonetti, immagino. Esatto, perché ne approfitto che non c'è Thomas, che non vuol mai provare dalle 10 a mezzanotte perché va a letto a dormire. Allora, visto che non ci sono loro, sono venuto qua stasera. Certo. Studia. Non staccano vista. Va bene, Antonio, noi ti ringraziamo della partecipazione. Ma grazie a voi. Lasciamo lo spazio. Chiamato. Figurati, ci mancherebbe. Dovevi fai parte del progetto, era giusto inserire anche te. Oh, grazie. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte. Grazie a te. Ciao Antonio. Allora. Così. Però volevo dire una cosa un attimino. Dimmi. Tu gli hai detto ma la sopportate così, quando loro mi fanno arrabbiare io gli dico: "Ragazzi, guardate che se mi fate arrabbiare, io vi scrivo una canzone d'amore straziante." Cioè, dove dico un sacco di pucci pucci e mici mici e tutti dicono no. Ho capito. A proposito di pucci pucci, vogliono bene, dai. Certo, pucci certo. Pucci e mici mici, ci fate qualcosa? Suoniamo ragazzi, sono 23:25, dobbiamo suonare. È già passato. Ci fate ascoltare qualcosa dal vivo adesso? Sì, dai, cantiamo qualcosa dal vivo. Facciamo un pezzo che è uno dei primi che ho scritto ed è si intitola Può essere. Ok. Ombre che dall'alto scorgo di anime invisibili, di corpi strani a noi stessi simili. Di consuetudini ormai ineffabili come sorrisi che inutilmente riempiono tutti gli spazi. Di mille bocche che durante il giorno incontro bocche che non conoscono il suono inutile, di mille sillabe che unite formano frasi invisibili ma insindacabili. So che è stato complicato per tutti i poeti in questo quotidiano dare un peso vero alle parole. Lo so, è difficile scindere il bene e il male e saper cosa dire. Quando sei tu a parlare gli altri fanno finta di ascoltare. Lo so che è difficile. Può essere voci che nel silenzio fanno rumore. La la la la la la la la la la la la. E si susseguono le frasi tipiche ma poco nitide, il cui suono emesso sembra ingannare l'aria. Ma sì, ci credo alle abitudini, fatti di frasi, fatti troppe cose, piatte troppe cose, dette troppe cose fatte. La la la la la. Maurizio, bellissimo questo pezzo, pezzo bellissimo, e c'è un motivo che è bellissimo, perché ricorda le cose che hai fatto una volta di jazz e bossa nova. Sì, può essere. All'inizio della tua carriera. È una delle prime canzoni che ho scritto. Esattamente, quindi all'inizio della tua carriera era proprio legata, quindi c'è molto swing questo pezzo, assolutamente. Sì, sì, sì, in realtà, come dicevi tu appunto, io poi sono un'appassionata di jazz e di bossa nova, quindi è vero che tutte le sonorità ti porti le buttifuori, le porti fuori, no? Quindi poi era un pezzo molto fresco, molto leggero, quindi... Mi piace molto farlo, ecco. Quindi. Beh, si vede, si è sentito anche adesso praticamente. Era molto divertente. Tutti quanti hanno preso subito l'input sì, tuo e via. Lo suoniamo da molto e comunque è un pezzo colla, lo chiamo io. Cioè, siamo molto in sintonia proprio a livello di empatico. Ecco. Quando suonate dal vivo, questo è un pezzo iniziale oppure nella scaletta come è messo? È sempre uno dei primi iniziali. Esattamente, sì. Serve per scaldare l'ambiente. Sì, sì, sì, bravo, perché serve proprio come filo trasparente di comunicazione tra di noi per dire ok, si va. Mm-hmm. Quindi è una carica per noi durante i concerti, sì, ci carica molto. Decisamente. A proposito, nei concerti come vi proponete, insomma? Dai, faccio rispondere uno dei due assenti, dai. Emanuele o Fio? Come due assenti? Due assenti al microfono. È uno solo. Ehi, mamma. Ah, vai al microfono. Vai, microfono. Fio. Vai, Fio. Cioè, cosa devo dire? Come vi preparate sul palco? Come siete? Ti dici come si... Non ti sento, ti sento pochissimo, ti sento molto poco. Ti sento molto poco. Si sente poco da questo microfono. Sì. Metti da questo, metti da quello. Ecco, adesso te lo portano. Ok, perfetto. Ti portano anche il microfono, così. Ecco. Beh, vai. Niente, questo qui è un gruppo praticamente acustico, per cui usiamo chitarre classiche, fisarmoniche, basso, insomma, eccetera. Ci proponiamo formazione tipica, batteria, percussioni. Mi porto un po' più di cose. Che cosa ti porti? Mi porto congas, tamburi a calice. Cosa sono i tamburi a calice? Fermati un momento, perché noi sai... Darabuke, dumbek, djembe. Cose alcoliche, insomma. Cose molto alcoliche, sì. Capito. Poi niente, poi Fiorenzo è un felice possessore degli strumenti a percussione più rari della terra. Ah, oh, bene. Ma sì, penso che siamo. Sei anche tu originario calabrese per caso? Come dici? Sei originario calabrese tu? No, non sono originario calabrese, però. No, sai secondo me c'è qualcosa. Perché non so bene le origini della mia famiglia, non sono ben conosciute. però secondo me c'è qualcosa che pende verso appunto sul sai perché te lo dico? Perché tempo fa è venuto qui in questa sede un musicista calabrese e si è portato appresso un sacco di strumenti strani. Me ne ricordo uno, cioè la lira calabrese, che non l'avevo mai vista. Sì. E poi aveva degli altri strumenti questo. Che non conoscevamo, e per quello te l'ho detto, magari cos'è una vostra passione della regione, che ne so. Beh, no, adesso io più modestamente, insomma. No, mi adesso lo metti in difficoltà. Uso cose più diciamo per me, insomma, più terra a terra, insomma, un po' più industriali, via, ecco, diciamo, non ho grosse possibilità di ricerca. Comunque mi fanno segno di tagliare. La regia. Non conosco sintesi. Siamo democratici al 100%. Non lo diciamo chi è che fa dei tagli dalla regia. Agostino, Maria Teresa vorrebbe suonare un altro pezzo subito. Vabbè, io sono pienamente d'accordo con lei. Che cosa, Maria Teresa? No, siccome parliamo di Sud, scusate, sì. Cioè direi di cantare la canzone che abbiamo scritto in Veneto per l'occasione, praticamente. E quindi spero che tutti gli amici che ci ascoltano da Pordenone, insomma. Cioè, fai diventare rosso il nostro bassista. Il bassista è diventato. No. Facciamoci un po' questa, una ballata del peperoncino. Sai, sì, che in Calabria, vabbè, è conosciuto per tante cose, soprattutto per questo. Allora, in maniera molto originale, ho intitolato questa prefazione, cosa chiama Pepper Ballad, che poi si collega a un pezzo calabrese che si intitola Nanna Mia, che insomma è dedicato a una persona molto speciale, che era mia nonna, che era una mattarellona, quindi da qualcuno avrò preso. E lei fino a 90 anni cantava ovunque, dovunque, con chiunque, quindi insomma è per lei. Per cui andiamo a Sud, va, che fuori c'è freddo. Radio Veneto. Pensando a una cosa, scondo una vecchia, scondo una vecchia, scondo una vecchia in mezzo a una via, scondo una vecchia in mezzo a una via. Cammina, parlano, parlano, cuglio e ceranno in lume una via, e parlano, nasce chi hanno, rizza la mena verso mia. Dove stai, e non peggio a guagliuna, dove stai? stai enno, dove stai enno, con la bra rossa come Cerese, dove stai enno, peggia mia, d'accordo che stamattina te stai seguendo, peggia gira, gira ste spalle, porta sul culo e cammina da festa via. Stavo guardando per giovaglione, cosa ci vede davanti a mia, capa rossa che fate via, nel mio corpo se era mia, stessa passione, stessa allegria, che te gira una faccia mia, quindi gira da mano che mena, e comincia a fare bene, ma che ne si, e te caridi, e questa spada si avrazza ride, gira contenta, contenta, occhi libera apertamente, gira te socchia, gira ste mene, e comincia a fare bene, gira te socchia, gira ste mene, e comincia a fare bene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Questa canzone bellissima, sì, eh? Sì, sì, sì, bellissima, bellissima. Mi è piaciuta moltissimo. Ballucchiato un po'. Ho ballucchiato un po'. Vi porto i saluti da mezza Italia qui, eh. Davvero? Allora, abbiamo... Evviva, che meraviglia, grazie. Abbiamo la Campania con Immacolata da Napoli. Poi, poi c'è Christian che ci sta ascoltando dall'Abruzzo e Daniela dal Piemonte. Bene, allora posso dire a tutti gli amici loro e gli altri di andare a sbirciare sul nostro sito? Certo che puoi dire allora, a parte che io sono su Facebook e anche tutti i ragazzi singolarmente, poi c'è il fans club, se no sul sito www.mariateresadonetti, strano, .com c'è tutto, cioè senza strano, mariateresadonetti.com. E se qualcuno, se qualcuno ti vuole invitare a cena, c'è anche il numero di telefono? Beh, c'è anche il numero di telefono. Però è quello della band, dai. Ma noi apprezziamo le cene. Beh, scusami, non è per tu, sì, vabbè, se ci invitate. Anzi, possiamo lanciare questa moda, noi veniamo a suonare a casa di tutti, basta che ci invitate a cena. Cioè, non sarebbe male acustico. Però L'hanno fatto, non sarebbe male questa cosa, l'hanno fatta negli Stati Uniti, lo sai che diventava sì, sono nata una là, cosa simile, gli artisti venivano invitati a cena e suonavano nella casa di chi li imitava. Le origini, sai che sono nati in America, quindi sono le origini. Ah, bene. Parla vicino al microfono, sono delle origini inconsce che sì, mi portano là, diciamo che Bene. Quindi invitateci pure, amici, noi veniamo. Volevo chiedere a Fiorenzo che strumento era, una specie di borsetta che hai utilizzato prima. quella borsetta con dove... sì, mettiti davanti al microfono. L'altro, ok. Ti abbiamo fatto dei corsi, insomma. Allora, questa cosa qui è un canestrino, potrebbe essere un canestrino. No, vederlo così sembra il canestrino della ricotta. In realtà... è brasiliano. Sono dentro dei semi seccati di non so cosa, fagioli, che ne so, che danno una sonorità particolare, chiaramente un po' di samba, questa roba qua, insomma. Quindi hai fatto un pezzo strumentale e un pezzo cantato assieme, praticamente. Sì, ma sono due pezzi separati. Sì, Pepper Ballad. Era per i fatti suoi. Così per i fatti suoi. Una cosa, un pezzo di poco, dedicato a tua nonna. Sì, e poi dedicato a mia nonna, perché io credo che questa passione, ma anche molto il suo il carattere, insomma, è simile al suo pimpante, molto... Sì, sì, mia mamma mi dice sempre che lei era, cioè, una battagliera, faceva un casino incredibile. E cioè, praticamente, alla fine io ho, mi chiamo Maria Teresa perché ho i nomi delle due nonne materne e ho preso i difetti di tutte e due. Quindi, alla fine, capisci? No, sono, sì, mica così. Difetti, sono pregi. Non sono... Sì, pregi anche difetti. Anche... E quindi così, insomma. Maria Teresa, le tue canzoni da dove prendi spunto? Sono cose che tu hai di vita personale? Oh, mi stai ascoltando, mi senti? Sì, sì, sì, sì, sì. Che la domanda sono... è seria, mi sto concentrando. sono cose che ti accadono, che vedi, che sono intimistiche? Come sono? Ma secondo me, guarda, fanno parte della mia vita parallela alla mia. Cioè, nel senso, no, non la mia, proprio di quello che scrivo... Non sono, no, esperienze di vita. Già tanto le cose che vivo tutto il giorno le so. Se le metto pure nelle canzoni è una noia mortale, cioè non ce la posso fare. Quindi quello per me è un mondo da evadere. Io entro nella porta della mia vita parallela e scrivo delle cose. Poi sono dettate più da sensazioni, da riflessioni, però sempre molto spontanee. Ecco, io, cioè, non è che mi metto lì e dico sono in paranoia, 3 mesi non scrivo niente, adesso mi metto lì e scrivo. Cioè, non me, io sono tranquilla. In un mese posso scrivere 10 cose e in 3 mesi non scrivere nulla. Quindi c'è proprio la libertà di che, ecco, non descrivo. Cioè, ci sono delle canzoni molto più personali, tipo sull'album c'è Dieci anni, che anche quella è una canzone in dialetto, infatti è molto intima, a parte che è molto acustica, c'è solo voce, chitarra e fisarmonica, però ecco, parla un po' di... è un racconto che mi faceva mia mamma quando mi raccontava appunto che lei, sua sorella, le sue amiche molti anni fa andavano a lavorare nei campi, quindi quando ero piccola mi lamentavo, diceva non lamentarti che insomma... magari sei anche stata fortunata, no? Per da certi punti di vista, invece noi bla bla, e mi raccontava. Certo, quindi certo. Ecco, da lì è nata questa canzone molto intima, poi se avremo modo di sentirla, se no sull'album che si può acquistare, lo posso dire, certo, su iTunes, certo, lo puoi acquistare. Cioè anche su iTunes, insomma sul sito ci sono tutti i collegamenti per comprarlo online. Insomma. Se uno lo vuole fisicamente come fa? Come si fa? Ai concerti, sì, vostri? Anche quello, oltre ai nostri concerti, certo. È distribuito da Venus. Ah, quindi è una distribuzione ottima. Sì. E poi nel nostro sito c'è un link ad un indirizzo di eBay, sì, della casa discografica che ci ha prodotto l'album, e quindi da lì si può ottenere fisicamente la copia. Benissimo. A proprio di fisarmonico, visto che Emanuele, professionista serio, imparava, cioè si preparava per il prossimo pezzo, vero Emanuele, sui tasti. Sì, io giochicchio intanto che voi parlate, esattamente, no? Si preparava già per il prossimo pezzo live. È una cosa da professionista serio. Vero, come tu sai chiaramente. Bene. Come mai questa passione per la fisarmonica? Come mai questa passione per la fisarmonica? La passione per la fisarmonica viene da quando mi sono avvicinato a un determinato tipo di musica, che è la musica folk che si, che si ascoltava quando io magari avevo 14-15 anni nel Parmense modenese, cose del genere, cioè i Modena City Ramblers, cose del genere, per cui da lì ci si poteva avvicinare molto facilmente. Io che venivo dal piano, dalle tastiere, insomma... Hai scelto la fisarmonica. Poi ho deciso di buttarmi anche, certo, in questo, insomma. Apprezzo. E c'hai la passione. È diventato il primo strumento, insomma. Bravissimo, Emanuele. Parlavamo dei concerti poc'anzi. Dove sono i prossimi vostri concerti? Chi vuole rispondere? Lo sapete? Avete altre date? Ti ricordi qualche altro concerto che fate oltre stasera che abbiamo fatto un'esibizione qua da noi? Ti ricordi qualche data, Maria Teresa? Se qualcuno vi vuole venire... Intanto suoniamo a Parma il 27 di novembre. Ecco, appunto. Ok, in piazza. E poi ci sono un po' di altre rassegne in ballo che dovremmo mettere più. E poi uno spettacolo musicale teatrale in gennaio. Quindi tutte le informazioni... Noi troviamo nel sito. Sì, sì, tutte sul sito. Beh, in ogni caso il 27 novembre c'è un concerto a Parma. Il 27 novembre c'è un concerto. A Parma, benissimo. Sì. Benissimo. Ok, Agostino, noi avremmo deciso, se sei d'accordo, di mettere su quel pezzo meraviglioso che, sì, che Maria Teresa ha fatto con il leader degli Yo-Yo Mundi, che è una cover di un pezzo degli Yo-Yo Mundi, un pezzo molto bello che noi abbiamo scelto come pietra portante del disco per 2 mesi, non metteremo su praticamente del disco vostro. La danza dei pesci. Esatto, danza dei pesci, un pezzo molto bello, adesso lo sentiamo assieme e poi ne parliamo, ok? Ok. ci porta via. E la danza dei pesci spada alla cuciria, fragranza di spezie in strada che ci porta via. Segreto castigo, non farci del male. Ci tocca viaggiare ancora e ancora dobbiamo tornare. In una valigia di vetro, un ciondolo e una cartina sbiadita. Questa avventura d'oliva e ginepro no, non è mai finita. E la danza dei pesci spada alla cuciria, fragranza di spezie in strada che ci porta via. E la danza dei pesci spada alla cuciria, spezie in strada che ci porta via, che ci porta via, che ci porta via. Sole, segreto, castigo, non farci del male. Sole, segreto, castigo, non farci del male. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, Paolo, ci sei? Sono qua. Ciao, ciao Paolo. Ciao Super Paolo. Buonasera, abbiamo al telefono Paolo Archetti Maestri, leader di Yuyu Mundi. Come hai fatto a trovare Maria Teresa a fare questo duetto, Paolo? Come è nata l'idea di questo duetto? Perché ero stressata. Beh, intanto prima di tutto è nata una bella amicizia, sì, con Maria Teresa e con tutti i ragazzi del gruppo. Tutto nacque dal batterista che ci venne a domandare ad un concerto, o forse via mail, non ricordo neanche bene questa cosa, però poi ci conosciamo ad un concerto, degli accordi di una nostra canzone, e da lì insomma è nata una bella amicizia e la voglia di collaborare. Maria Teresa l'avete conosciuta, è una forza della natura. Certo, certo. Un artista che merita molto, è così. Confermo. Noi ci siamo messi a disposizione. Confermiamo al 100%. Confermiamo. Paolo. Ma è stato bello l'idea della voce femminile e la voce maschile in un vostro pezzo, Paolo? Beh, sì, devo dire sì. In questo caso la scelta è tutta loro che appunto avevano deciso di fare in concerto La danza dei pesci spada, un giorno mi è capitato di cantarla insieme a loro durante un concerto a Parma e nella loro città, e così poi insomma da lì è andata a finire dritta sul disco. Il disco è uscito per la nostra Shop Pro Records. Esatto, esatto. Devo ricordare che incidono per la vostra etichetta, è una cosa molto importante, sì, molto significativa. Voi che avete sempre un occhio per le produzioni di un certo livello, secondo me. Ecco, questo mi fa piacere. Beh, grazie davvero. È difficilissimo fare dei dischi oggi in Italia, sempre più difficile, ma noi da musicanti e da artisti cerchiamo di metterci a disposizione un po' con la nostra esperienza, un po' con queste nostre strutture talvolta scricchiolanti, però piene di energia e di positività come la nostra etichetta, insomma. Certo, ma sono tanti anni che incidete, avete sempre fatto delle cose molto interessanti, tanti progetti che sono sempre andati avanti, Paolo. Anche questo ultimo di Roma fa è fantastico, in diretta, esatto, sì. Dimmi Paolo, mi senti? Sì, certo. No, se la Maria parla distante non lo sente. Quindi... Paolo, Maria, no, devi parlare dicevo vicino. Che, sì, mentre tu dicevi tutti i loro lavori, è l'ultimo Monfra, è fantastico, è veramente un capolavoro incredibile. Ma sai che Paolo ci ha detto che viene a presentarlo qui? Ah sì? Sì, me l'ha detto prima al telefono, eh. Vero Paolo? Arriverò e arriveremo prestissimo. No, veramente tutti gli attaccati, perché è un capolavoro della natura, quello lì è meraviglioso, veramente. Il primo concerto dalle vostre parti, in zona, cercheremo insomma di ritagliarci lo spazio giusto. Ecco. Sì, vieni qui, ci facciamo una bella serata in compagnia, e con la vostra musica ovviamente. Grazie. Bene, grazie Paolo dell'intervento. Questo spirito mediterraneo che ha dato Maria Teresa è stato decisamente positivo e il pezzo è molto molto bello, complimenti decisamente. Grazie molto e saluto tutti i ragazzi, Maria Teresa. Ciao Paolo, insomma, un bacio! E poi grazie dell'ospitalità a voi tutti della radio, un saluto agli ascoltatori e ci vedremo presto live. Ti aspettiamo qui allora, ok Paolo? Ciao Paolo, grazie Paolo. Beh, è stato bello. Sono fantastici. Sono molto bravi. Eugenio, sì. Tutto Fabio, tutti gli yo-yo, sono delle persone incredibili. Cioè, quando veramente tu incontri dei musicisti che, cioè, con la loro umiltà ti fanno capire come sono grandi. Sì, e poi giustamente diceva, portano avanti un discorso, cioè, importante, per gestire un'etichetta assolutamente indie come la loro non è mica semplice coi tempi che corrono. No, infatti è molto difficile. Sì, poi ci hanno dato fiducia e comunque per noi è stato un incontro ovviamente importante da un punto di vista musicale, però proprio a livello personale, cioè anche il fatto di stare insieme, fare questi pranzoni e suonare insieme la chitarra e mettere giù delle note e improvvisare, insomma, fa la differenza. Per noi certo. Sono delle belle cose che ci portiamo dietro. Ecco. Dimmi. A maggior ragione ci sentiamo onorati appunto di questa attenzione da parte loro, e devo dire che adesso sembrano sviolinate, però come spesso accade, i musicisti e le persone più di spessore sono quelle che meno ti fanno pesare la loro esperienza e la loro storia. Quindi da qua mi ricollego a quello che stavo dicendo, abbiamo sempre lavorato in un clima molto cordiale di collaborazione, sì, totale. Poi Paolo si è messo incredibilmente sempre alla nostra pari, chiedendo quasi lui il nostro parere quando noi eravamo là, come dire, tutta la tua esperienza, cioè, dettaci tu quando c'è l'umiltà, credo si faccia molta strada. Se invece c'è la presunzione, invece, sai, a volte ci si ferma lì dove si è arrivati, insomma. Che emozione, dai, questo incontro, tutte queste carambate. Che sempre con le sorprese. Io adoro le sorprese. Ok, 23:58, ragazzi, suoniamo subito qualcosa. Sì. Cosa? Allora, adesso questa qua la dedichiamo a te, giusto? Perché, grazie, ti ringrazio molto. Perché hai detto che ti piace. Sì, moltissimo questo pezzo. Adesso improvvisiamo tutto ed è si intitola Sette Cavalli. Blu Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Il primo di ghiaccio suo lungo vestito trasmosso il viso di un viaggio deciso, si atteggia il ruente ben poco inibito, alla fine cedendo e fallito. Dal secondo partivano frasi e consigli a coloro che amava suo dir come figli. Il suo fine era invece invertire la strada, e così il suo gioire arrivava. Del terzo ben poco si conosceva, ed alla fine della strada il suo pensiero risuonava, e la morta lontana salutava. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Dal quarto uno strano silenzio arrivava, non era piacere creare rumore, bensì l'ironia di un insolito umore che lasciava lo spazio all'ardore. La bocca del quinto era troppo occupata da miseri vini, ingordigia impediva il nascer di suoni e parole, impedivano il nascer del sole. Il sesto per la sete si contraddiceva, il troppo volere poi la pesantiva, e cercava una vita che mai dissetata finissero un pozzo senza fondo dove rinfrescare il suo gioco e mondo. Finissero un pozzo senza fondo dove rinfrescare il suo gioco e mondo. Settimo, un figlio che avente sei padri, amati e odiati da un cuore invadente, urlò con gran voce un'ira latente. Soltanto dal niente ciascun rinasce, dal niente ciascun riparte. Soltanto dal niente ciascun rinasce e dal niente ciascun riparte. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Sette cavalli che dondolano tra strade e cupi pensieri, sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Sette cavalli che dondolano convinti dell'oggi e del ieri. Il folk, ragazzi, questo è il folk, puro folk, bellissimo, sì, pezzo bellissimo. Agostino, smettila di ballare. Pezzo splendido, bellissimo. Poi, cioè, un pezzo da gruppo, proprio un pezzo da gruppo. Sai, veramente, che l'ho scritto questo pensando ai sette... Siete visti capitali, vero? Sì. Sì. Che poi non sono neanche, non so quali sono, però... In ogni caso, sì. Bello, bello, molto bello, molto interessante. Uno dei pezzi, a me, secondo me... i pezzi più interessanti della, a mio parere, mi piacciono tutti, però questo e la danza del pesci spada sono i pezzi che mi sono subito, mi hanno preso immediatamente. Poi dopo è il progressive di Viva la Società. Dopo c'è il progressive di quello, sì, esatto. Devo dire che anche nelle recensioni che non ci aspettavamo, che sono arrivate, tutte positive, dobbiamo dire. Sì, non so se quelle negative vanno direttamente nella spam della posta. Devo dire che i vari giornalisti hanno sempre commentato o proposto canzoni diverse, perché essendo un album eterogeneo, alcuni piacciono alcune cose, alcuni altre, certo, piacciono alcune altre, quindi... No, ma sono esattamente un album eterogeneo, ci sono tante facce, tanti ritratti, tanti momenti ognuno proprio ha uno specifico praticamente. C'è il jazz, pochettino, c'è il folk, c'è il rock, c'è il progressive, quello è importante. Eh sì. E poi ci sono tante cose. Poi magari l'ascoltiamo. Sì, certamente. Il progressive. Okay. Poi è nato proprio come un viaggio. Mm. Nella sua eterogeneità, comunque c'è un filo logico che lo lega dall'inizio alla fine. E questa è una cosa straordinaria, perché proprio per la diversità dei pezzi sembrava quasi impossibile all'inizio riuscire a darci un senso. Invece poi è uscito veramente una cosa molto anche coerente. Grazie a Paolo, che da questo punto di vista ci ha seguiti molto. Quindi. Certo, certo. Infatti la sua direzione artistica è stata mm-hmm. proprio nel indirizzarci verso un tipo di proposta che non fosse prettamente commerciale, ma fosse una nostra, nel senso che ci sì, sì, certo, certo, assolutamente vostra. Sì. Oltre ai musicisti, voi, chi ha suonato in più nell'album? Ha suonato Alex Leonte, che è il violinista sì. che collabora stabilmente con gli Yo-Yo Mundi. Poi, poi un grandissimo musicista e giovanissimo, Emiliano Vernizzi, sì. che è un sassofonista e flautista giovanissimo. Attualmente in tournée in America, ce lo danno per disperso su un bus da 12 posti. Perfetto. L'abbiamo sentito nel pomeriggio e niente, dall'altra parte del mondo. Bello, sì, bello. E poi anche Fabio Martino, che è il tastierista degli Yo-Yo Mundi, è intervenuto oltre che nella direzione artistica, certo. come tutto il gruppo, sono stati tutti molto carini, perché adesso abbiamo parlato di Paolo, ma ci hanno sì, seguito molto. Sì, è intervenuto in un paio di canzoni, ad esempio con uno strumento strano che era il l'armonium. Sì, in Dieci Anni. Ah, sì, perfetto. Che è l'armonium che ha utilizzato Ivano Fossati per Terra Dove Andare. Ah. Quindi c'è proprio lo stesso strumento. Perfetto. E un saluto lo voglio dare a Gianluca Bronzoni e l'Agemax per questa foto che ti ha fatto in mezzo al campo di grano turco qui. Hai visto? Sei spettinata, come dicevi prima. Quanto ore di trucco. No. Sei naturalissima. Bella, bellissima questa. Ma tutto. Sì, tutte le foto della copertina del disco sono bellissime. Si trovano anche quelle di. C'è il booklet. Il bootleg, sì. Dimmi. Ci tenevo a dire che l'album è stato registrato presso lo studio De Mira da Valerio Carboni a Reggio Emilia, che ha fatto anche la solo di Viva la Società, ed è l'altro musicista che è intervenuto nell'album. E dobbiamo dire una cosa a proposito dell'album: non ci sono campionature, non c'è niente, tutto live, sì, sì. Tutto assolutamente tutto legno, percussioni in realtà, tutti gli strumenti originali, non sono stati utilizzati animali o persone. Anzi, io se posso dire una cosa in due secondi, visto che diciamo parliamo delle percussioni, dei suoni originali, si possono riscontrare nell'album in un pezzo che è strumentale dell'Eco del Mediterraneo. Ci sono tre strumentali nell'album. Esatto, sì, l'Eco del Mediterraneo è un pezzo unico che poi abbiamo diviso in due ed è di Thomas Carretta, che è qui presente, quindi la critica l'ha avvicinato a David Gilmour, quindi cioè, figurati, vedi la mente, sì. Non dico e quindi niente, io sono molto contenta, perché è vero che io scrivo le canzoni, musiche, tutto quello che vuoi, però per me il senso è proprio per me loro sono fondamentali, certo, se non hai una buona band non puoi andare da nessuna parte, anche se sei un genio, per me, per quel che riguarda il mio modesto parere, e soprattutto sono orgogliosa del fatto che ci sia un pezzo di un mio musicista, quindi non è che insomma adesso è il mio lavoro, quindi qui sono solo io, solo così mia, cioè, per me è motivo di orgoglio e sono felicissima delle cose che hanno scritto, e quindi io lo ricordo perché lui non lo dice mai, quindi lo dico io che il pezzo giusto, è suo, è giusto che sia così, è giusto, quindi dai a Carretta quello che è di Carretta. Bene, ok, Agostino, licenza poetica. È licenza poetica, sì. Cosa dice Agostino adesso? Decidono loro. Cosa volete suonare, fare adesso? Volete suonare un altro pezzo? Dai. O volete fare Facciamo sentire il disco Progressive, dai. Facciamo sentire Viva Viva la Società. Sì. Esattamente, sì. Ok. Questa luce che cammina sopra i piedi freddi. Sento il calore dell'imperfezione umana che deride il senso. mille vita che confondono mani inutili. Potrei utilizzarle per portare il peso di chi un'anima ce l'ha. Mi han detto crea scontento in questa società. E come la scrivi racconti, o come la pensi e la incontri, l'immensità degli eventi che segna tra gioia e scompensi. L'essenza di colui che mente pur di non ammettere che niente riempie la vita e la gente e vive viva la società. Momento così che le gioie ne impianti, così che due giorni in avanti siano certi di essere vissuti con gusto e non come avanzi. Rock Wave ancora in onda, siamo in diretta con Maria Teresa Lonetti e ti porto i saluti carissima da parte di una persona che ti sta ascoltando e dice vorrei salutare Maria Teresa, si chiama Maria Giovanna Bevilacqua. Ah, un bacio grande, lei è una mia cara amica, le devo dire, è una mia amica storica, quindi le voglio un bene dell'anima e le mando un bacio speciale. Da dove ci sta ascoltando? Lei sta ascoltando a Melissa, una mia compagna, sì, proprio d'infanzia. Ah, ma sì, sì, sì, sì, assolutamente. Scuola insieme, lei Calabria, è ovunque. Un bacio grande. Quindi abbiamo salutato anche Maria Giovanna. Sì, sì, sì. Velocissimamente per capire come avete fatto questo arrangiamento progressive, decisamente progressive, un pezzo molto interessante anche questo. 30 secondi per capire il perché. 30 secondi per uno? O ti 30 secondi. Allora, no. Dunque, io dico, sempre c'è, ovviamente si nota i tempi dispari che ci certo. sono. Io sono cresciuta, questo lo devo dire bene, tra virgolette, musicalmente, grazie ai miei fratelli, li devo ringraziare. Che più vecchi di te? Sì, sì, quattro più vecchi di me. Quattro più vecchi di te. Quindi loro, insomma, in casa c'erano sempre musicisti, non so, i Doors, i Talking Heads, gli Smiths e Jethro Tull, quindi capisci, insomma, la crescita è stata abbastanza interessante per me, per cui cioè, sono molto affascinata da quei suoni un po' cupi, progressive. Poi gli anni 70 sono gli anni che io adoro in assoluto, sia per questo tipo di musica, ma mi piace molto anche la musica dance, per dire, no? Certo. Gli arrangiamenti funky, no? Con tutto quel groove lì che è unico. E quindi, insomma, l'arrangiamento io ce l'avevo proprio in testa e ben definito. Quindi, come al solito, sono andata in sala e ho detto, ragazzi, ho fatto un pezzo tranquillissimo, vada Dio, pezzi dispari, ma va. e via. Ci abbiamo messo tipo 8 mesi. Benissimo. E poi so che ti piace anche Pino Daniele, comunque. Sì, sì, Pino Daniele, il vecchio Pino Daniele. Ero a metà. Quello che contestava, quello tosto. Mm. Sì. Visto che Maria Teresa ha già detto i suoi gusti, adesso tocca a voi, dai, musicali. Velocissimamente, due dischi da testa. Parto io. Vai, sono due dischi. Allora, il primo The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. E con la nuova versione adesso, l'avevi stampata da qualche giorno? No, è quella versione prima. E il secondo che si ricollega è The Dark Side of the Moon, che è la versione fatta dagli Easy Star All Star. Sì, me lo ricordo. E disco. Quindi io dico questi due. Io reggaetterò inside, quindi ragazzi, vai. Per me è molto difficile, perché è veramente difficile, perché io ascolto tante cose e c'è un album magari per ognuno, e a volte anche non solo un album. Se devo dirne due, Oro, Incenso e Birra di Zucchero e And Justice for All dei Metallica. Ah, come mai Metallica? Perché a me piacciono anche, perché nella musica io vengo da studi classici anche, certo. E mi ha sempre affascinato il pianissimo e anche il fortissimo. Per cui secondo me non può esistere l'uno senza l'altro. Non ci ha dato Black Album in Metallica? Perché è un po' più commerciale. Invece in Justice for All è stato quello prima che dentro era un precursore del Black Album, giusto. Però aveva dei suoni stranissimi. Poi ha fatto con delle frequenze che mi ha sempre molto affascinato. Certo, poi Black Album è stato successo planetario, sì, di Metallica. È stato quello che li ha lanciati. Che li ha poi lanciati e ha sdoganato anche un po' il metal, certo. A livello proprio commerciale anche, però da questo punto di vista ci sono state anche le voci contrarie che li hanno considerati un po' commercializzati. Mentre quello il nostro bassista? Io invece sono legatissimo a Abbey Road dei Beatles. Ah. Bello, bello. E Key Day dei Radiohead, anche se dei Radiohead mi piace praticamente l'intera discografia, soprattutto gli ultimi lavori, quelli più... un po', sì, di ricerca, possiamo dire questo. Esatto. Di ricerca. L'elettronica che utilizzano e come la utilizzano con... Thom Yorke è un grande genio, eh. Sì, no, c'è poco penso da che fare. Al momento sia la band che ha più cose da dire. È vero. Nostro percussionista, tutto fare. Due dischi difficili. Lo so, purtroppo il tempo è questo. Però no, vista le cose anche. Che mi vengono sì, subito così alla... Allora, De André, Non ha denaro, non amore nel cielo e direi Wish You Were Here di Pink Floyd. Perfetto. Scusa, non c'è Maria Teresa Lonetti nella... allora, ragazzi, nessuno ha scelto La Grande Danza, siete tutti licenziati. Benissimo, Agostino, dunque adesso cosa possiamo fare? Secondo me ce la fanno a fare due pezzi live uno dietro l'altro e li salutiamo, e li salutiamo prima. Così. Li salutiamo prima e loro io però voglio due fare pezzi una domanda live. Maria. Sì. Cosa hai, sinceramente, sì. Cosa hai voluto dire al tuo pubblico con questo disco? Aiuto. Allora, ho voluto dire che ho qualcosa da dire. Intanto, certo. E soprattutto invitarli a così fare un giro con me in questo viaggio, in questo ballo, e soprattutto anche un modo delicato di, diciamo, di dire attenzione a qualche emergente o pseudo cantautore in quella che ha delle cose molto interessanti da far sentire. Per cui aprite le orecchie non solo a me, perché ci sono tanti altri miei amici, colleghi musicisti che fanno delle cose che ha veramente, diciamo, senso sentire. Per cui, insomma, così come potrete incuriosirvi di una ragazza calabrese che canta delle cose in dialetto, magari incuriositevi anche di quello che c'è nei borghi della musica, che poi è sempre quello che è. Insomma, fa la differenza. Aggiungo un'altra cosa. Dimmi. Chi è Maria? Chi è? Chi è Maria Teresa? Oh, signor. Ma sai che mi sembri Marzullo? L'orario è questo. L'orario è questo. Però adesso se mi dici, fatti una domanda, datti una risposta, cioè diventi il mio mito numero uno. La domanda era chi sono le Marie Teresa? E poi ci salutiamo, dai. Ma insomma, sono si può dire una personalità double fast che cerca di darsi delle risposte? Puoi dire quello che vuoi. Sei sì, tu che qual sei. Qual era la domanda? Si è dato una risposta con una domanda. Sì, sì, sì, sì. Meraviglioso. Comunque, parafrasando le canzoni, lei è una persona dispari. Ah, ecco. Ok. sono la persona dispari che cerca i suoi tempi pari. Ok, va bene. Sean, posso invitare tutti i nostri amici ad andare a, di andare sul nostro sito? Certo. Sì, allora adesso facciamo, ripetiamo un po' prima di salutarci i tuoi dati, cioè i dati anagrafici, sì, nel senso quelli per cercare di contattarti, insomma, se qualcuno sì, volesse. Sì, assolutamente. Allora, sul sito mariateresadonetti.com, poi sono su Facebook, io personalmente, ma anche tutti i ragazzi, Massimo Spadotto, Emanuele Mazzaschi, siamo tutti singoli, quindi cioè, a me fa piacere e soprattutto faccio un invito ai gestori di locali che ci ascoltano su Padova e in altri posti. Insomma, noi se ci volete, se volete che veniamo lì a mangiare soprattutto e a suonare, insomma, contattateci pure, c'è di tutto, le mail, i telefoni e veniamo molto, molto volentieri, spacchiamo il locale e andiamo via, ma senza che voi ve ne accorgiate, esatto. Insomma. Il disco dove si trova? Il disco si trova, si può comprare su iTunes, su un bel po' di store online, che ci sono tutti i link appunto sul nostro sito, poi nei negozi anche della Feltrinelli, basta soltanto richiederlo e nei negozi di musica comunque in generale. Ricordiamo l'etichetta è la Sciopero Records. L'etichetta Sciopero Records. Distribuzione Venus. Distribuzione Venus. Benissimo. Allora, un grazie a Thomas Carretta. Ci sei? Ciao, grazie. Stavo a voi. Facendo dei segni strani. Ci stavamo mettendo d'accordo perché non sembra, ma dobbiamo anche suonare. Vi ringrazio molto, siete stati molto ospitali, è stato un onore per noi essere qua. Grazie a voi. Un grazie a Massimo Spadotto. Grazie mille a tutti voi, è stato veramente un piacere essere qui. Un grazie a Fiorenzo Fuscaldi. Grazie a tutti quanti. E un grazie al fisarmonicista, cioè Emanuele Mazzaschi. Oh, grazie, grazie mille. Un caro saluto lo mandiamo ad Antonio Bodini, che non è stato presente che fisicamente. E un grazie a Maria Teresa. E io, guarda, vi mando dei baci volanti, poi ve li do dopo. Sì. E vi ringrazio di cuore, veramente a nome di tutti. Sono stata molto bene, mi sono molto divertita e caricata, perché adesso sono cavoli loro a spegnermi fino a Parma. E proprio per voi, cioè adesso suoneremo un pezzo inedito, che non abbiamo suonato mai da nessuna parte. Quindi è un'esclusiva. E siccome, diciamo che il titolo, insomma, mi rappresenta, si intitola Fermento. Ok. Un grazie a tutti e ci vediamo su... Dove volete giro, voi. Concerti, Facebook e un bacio grande e sogni d'oro a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto. Blu Radio Veneto. Eh? Blu Radio Veneto. Che vabbè, non importa, non allora, preoccupate. Blu Radio Veneto, ascoltate questo di radio. Non allora, un grazie da parte nostra, ovviamente è scontato che te lo diciamo, grazie per aver accettato l'invito, grazie a tutti voi. E ti aspettiamo per il prossimo disco? Assolutamente, molto presto. Sì? Eh sì, è già in arrivo il terzo? Ma sai, noi pensiamo avanti. Okay. Giusto. E allora ti aspettiamo per il terzo. Assolutamente, disco. Ma anche prima. Vabbè, quando vuoi. Anche le porte il disco. Le porte sono aperte. Allora, grazie. Ci salutiamo con Fermento. Sì. Un bacione a tutti, un abbraccio e Maurizio, dopo. Noi ci sentiamo... La prossima settimana. Giovedì. Per giovedì prossimo e poi avremo un live il martedì e... Un live importantissimo con Mimmo Cavallo. Facciamo sì, uno solo, sì, uno solo. Allora facciamo soltanto un pezzo. Sì, esattamente. Sì, sì. Allora cosa facciamo? No, allora non facciamo l'inedito, ragazzi. Non possiamo, ma possiamo non fare così. Sì. Se riuscite a farlo, possiamo vicino. Fare un mix. Un mix fra un pezzo e l'altro. Se ce la fate? Ce la fate? Perfetto, non ci riusciamo. Allora facciamo Terra d'Acqua, dai. Facciamo Terra d'Acqua, dai. Salutiamo. E non facciamo quello... No, facciamo così. Possiamo sì. Fare Terra d'Acqua e fare un assaggio di fermento. Bravo. Ok. Partite pure. Grazie, okay. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao. One, two, three. Giri sta menzina e mo guardi sa manera, capisci stamattina perché ride, per quando via dai cercato camminando fino a sera in nuvole confuse faccia tua. A sa terra si legato e non te le cavo te, che stanno orgoglio e netto per quando vado dai cercato e per stesso un te trovato e tutti i voti dai cercato un te trovato e quando non ci penso fa sempre tardi e quando non ci penso fa sempre presto e quando non ti ricorda chi ne pensa terra d'acqua fuoco e dirà me. E cosere tuone cerrere avessa ma pensare la fortuna che teni ma serere e cosere tuone cerrere avessa ma pensare la fortuna che teni ma serere amici e federare care vostre e pecche su tuoi amici che potoste gira flaute e tambure e spacchi mure vita forza e coraggio all'arrembaggio. Preta amici e parenti e conoscente, gridate a tutti vende, a tutti vende, e credetelo contente, così fetente, meglio essere perdente e non fetente. E quando non ci pensa fa sempre tardi, e quando non ci pensa fa sempre presto, e quando non dà ricorda chi ne pensa, terra, l'acqua, fuoco e dirà me. E quando non ci pensa fa sempre tardi, e quando non ci pensa è sempre presto, e quando non dà ricorda chi ne pensa, terra d'acqua fuoco e diramenti, terra d'acqua fuoco e diramenti, terra d'acqua fuoco e diramenti, terra d'acqua fuoco e diramenti. Stanotte che parla più di parole corrotte, infuocate e curiose che ruotano nel sottile l'anima, passa dritta e corre in fretta la lametta e smettila di recidere rami freschi e attaccare quelli secchi. Lo sguardo e vedo niente che mi commuove, imbarazzante, ruota intorno un vortice folto e petali cantano intorno, sentila, stringila e portala via, urla infinita la fantasia, geme, accarezza e di colpo lamenta, è la tua vita ferma. Hanno i pensieri infranti di gesti incoerenti, scostanti, che percuotono l'anima e danno sentore di che cosa è il rumore, e porto il vento da est e incoraggio le mani, incontrar non è semplice e uccidere ancor di più, punta la lancia, scaglia il nemico, da te costruito, infangato e cupo e storrido, con semplice euforia, vecchia semplice pazzia. Con semplice euforia, dolce splendida pazzia, sentila, sentila, portala via, con l'infinita la fantasia. grazie. Buonanotte. Buonanotte. Notte. Notte. Notte. Oh. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito.